ci sei per me. Mi veste, tu ci sei per me. Ho fame, te ne vai per te. Ho lei e tu ci sei per me. Noi due in vista di un weekend, senza sorriso assomigli un po' a me. Le tue mani non le cercherò più.